di canzone in canzone, di casello in stazione, abbiamo fatto giornata che era tutta da fare. La luna ci ha presi e ci ha messi a dormire o a cerchiare la bocca per stupirci o fumare, come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile. Buonanotte all'Italia, deve un po' riposare, tanto a fare la guardia c'è un bel pezzo di mare. C'è il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato e non viene smontato, e zanzare e vampiri che la succhiano lì se lo pompano in pancia un bel sangue così. Buonanotte all'Italia, che si fa o si muore o si passa la notte a volerla comprare, come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile, come se i diavoli stessero un po' a dire di no, che son tutte favole. Buonanotte all'Italia, che c'è il suo bel da fare, tutti i libri di storia non la fanno dormire, sdraiata sul mondo con un cielo privato fra San Pietro e Madonna, fra progresso e peccato, fra un domani che arriva ma che sembra in apnea e i disegni di ieri che non vanno più via, di carezza in carezza, di certezza in stupore, tutta questa bellezza senza navigatore. Come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile, come se i diavoli stessero un po' a dire di no, che son tutte favole. Buonanotte all'Italia, con gli sfregi nel cuore e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere, la guarda distratto come fosse una moglie, come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie. Una stella fa luce senza troppi perché, ti costringe a vedere tutto quello che c'è. Buonanotte all'Italia, che si fa o si muore o si passa la notte a volersela fare.